9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 28 di aprile e questa puntata, il gattaccio che ranfa un pochino la notte, ha deciso di dedicarla a ciò su cui apro molti quotidiani oggi, che da 2 giorni ha riacceso le polemiche sulla scena politica del nostro paese, cioè il cambio di posizione, come lo vogliamo chiamarlo, aggiornamento, se cambio di posizione vi può sembrare troppo critico, che il governo ha assunto nei confronti della vicenda libica, dove dopo settimane in cui la posizione italiana era quella di non partecipare direttamente alle azioni di appoggio al fuoco aereo alle truppe e alle forze armate, per così dire, o meglio ancora alle milizie degli insorti, abbiamo deciso, sentito Berlusconi, il presidente degli Stati Uniti, e in vista del bilaterale francese con Sarkozy di martedì, di partecipare anche con aerei italiani a questo tipo di operazioni. Alla reazione che a questo tipo di adeguamento della posizione italiana ha assunto la Lega, ancora ieri il ministro Maroni, il ministro degli interni, ha ribadito che Berlusconi ha sbagliato e nelle sue dichiarazioni ha confermato che il governo è a rischio se non fa quello che deve e non ci consulta, quindi tensione tra Bossi e Berlusconi. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato a un certo punto: la politica estera non si fa in via Bellerio, io non ho alcun timore di un voto in aula. Conclusione, vi sono parecchi interrogativi su cui ascoltare i nostri ospiti e sentire come la pensate voi, chiamate all'800 24 0024 e naturalmente il numero dei messaggi SMS è sempre lo stesso, ma ve lo ricordo, il 349 238 6666. Quali sono questi punti sui quali tentare di chiarirci le idee? Primo, quale fattore davvero abbia indotto il Presidente del Consiglio italiano a rendere disponibile i nostri velivoli per questo tipo di missione? È comprensibile che gli americani, che si erano tirati indietro dopo i primi giorni in cui avevano impegnato 80-100 velivoli in più ogni giorno e molte decine di missili da crociera tirate dalle loro navi, dai loro sottomarini nucleari, poi hanno fatto marcia indietro perché il Congresso ha fatto chiaramente intendere al Presidente degli Stati Uniti che il gradimento era molto basso per questo tipo di impegno, ma venuto meno l'impegno americano, si è capito nel tempo che i mezzi francesi e britannici da soli e quelli di altri paesi della coalizione come i danesi e i norvegesi non erano in grado di far uscire la situazione dallo stallo che c'è sul terreno tra le forze degli insorti e le forze libiche da una parte, però questo bisogna intendere che gli italiani lo avessero per così dire messo in conto tanto da gradirla questa situazione, perché non capisco altrimenti come non avessero previsto questa logica condizione che si era creata in ragione del fatto che avevano messo a disposizione le proprie basi ma non partecipavano appunto ad azioni di appoggio a fuoco sul terreno. Evidentemente bisogna intendere invece che la situazione di stallo creatasi non era stata messa in conto dagli italiani, oppure che la situazione di stallo creatasi nell'opinione del Presidente del Consiglio ha assunto una condizione degli sviluppi futuri possibili diversi da quelli che erano stati valutati, oppure ancora che c'è stato un conto italiano all'inizio di dimostrare ai franco-britannici che senza di noi in realtà i loro roboanti obiettivi iniziali, quelli degli aerei in volo nei minuti successivi o forse anche prima del voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al di là di tutto non avevano ottenuto risultati, non in grado di ottenerli se non attraverso poi il nostro decisivo contributo, e questo forse anche per tutelarci rispetto alle posizioni di interesse in Libia che abbiamo sempre descritto e che vi sono ben note oramai, a cominciare dall'insediamento storico e dalla quota di approvvigionamento energetico che l'ENI ci garantisce in quel paese. Però, ciò malgrado, è una decisione impopolare, è una decisione su cui la Lega punta i piedi, convinta che nei sondaggi agli italiani alla fine questa linea del non impegno fosse stata gradita, così come nei sondaggi sembra. Conclusione, dico solo un'ultima cosa prima di presentarvi gli ospiti. Oggi un commento sul Sole 24 Ore in prima pagina di Stefano Folli descrive l'ipotesi del fatto che la tensione tra Lega e Presidente del Consiglio possa evolvere poi in qualche cosa di più della solita muina, se se permettete, che a cui ci ha abituato da sempre la politica italiana, e cioè in una vera e propria crisi o precrisi. Sarebbe un suicidio in mondovisione, dice Stefano Folli sulla prima pagina del Corriere del Sole 24 Ore, perché le sue parole testuali di inizio pezzo, sottoscrivo integralmente, sono queste: una crisi di governo sulla politica estera assomiglia molto a un suicidio internazionale, ancora peggio una crisi che dovesse esplodere per smentire gli accordi NATO sullo sfondo di una mozione dell'ONU che l'Italia ha accettato. E infine, ipotesi in assoluto pessima, una crisi che prendesse forma all'indomani della dichiarazione ufficiale del Presidente del Consiglio resa ai maggiori alleati, in cui si annunciano i bombardamenti mirati in Libia della nostra aviazione. Però gli interrogativi sono sacrosanti e il giudizio degli italiani, da quello che appare, è niente affatto unanime, molto diviso. Sentiamo i nostri ospiti che opinione hanno avuto di questo sviluppo, se se lo attendevano e che conseguenze ha nella loro valutazione. Abbiamo con noi innanzitutto Sergio Divina, che è componente della Commissione Difesa del Senato per la Lega Nord. Buongiorno senatore Divina. Buongiorno a lei, dottor Giannino. Andrea Nativi, che è direttore della rivista Italiana Difesa. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alessandro Politi, che è analista politico e strategico. Buongiorno Politi. Buongiorno a voi. Allora, Divina, possiamo ripuntualizzare, perché sicuramente qualcosa non ho ricordato nei termini e nei modi giusti della posizione leghista. Evolverà come nel voto, ponendo limiti all'impegno dei velivoli, e in ogni caso la valutazione che fa la Lega di questo cambio di posizione da parte del Presidente del Consiglio a oggi, a quest'ora la mattina, come potrebbe essere espressa? Direi che la Lega ha cambiato poco posizione sulla questione libica. Eravamo partiti già critici, nel senso che abbiamo anche condizionato all'inizio la posizione del nostro governo, perché nessuno capiva neanche bene come si doveva interpretare questa no-fly zone, e la risoluzione dell'ONU sostanzialmente obbligava ad un'azione congiunta. Abbiamo visto partire Francia, USA, Gran Bretagna in ordine sparso, ognuno probabilmente con obiettivi diversi, e noi ci siamo resi conto che qualsiasi pasticcio avessero combinato queste altre forze, noi avremmo pagato in prima persona. Abbiamo preteso pertanto il rispetto della risoluzione 1973, famosa, e diciamo che dopo un po' di schermaglie tutto un po' è rientrato e tutti hanno dovuto dare l'ok a questo modo di agire, a questo modo di comportarsi. Diciamo che abbiamo ottenuto un doppio risultato: non solo tutti sono venuti sulle nostre posizioni originarie, ma abbiamo chiuso il cerchio che avrebbe rischiato, secondo noi, veramente grosso se Lega Araba e Unione Africana non avessero sostenuto l'azione NATO ma si fossero schierate apertamente con la Libia. Prefiguriamo quali scenari si sarebbero potuti realizzare. La stessa Turchia il giorno dopo ha detto sì, in queste condizioni appoggiamo anche noi un intervento, ma chiaramente sotto controllo, regia e egida NATO. Adesso ci troviamo, noi crediamo, nella stessa identica situazione. È una situazione che così vorrebbe usare maggior prudenza. La Libia è un trampolino di lancio. Gli sbarchi che possibili arriverebbero sulle nostre coste. Ricordiamo per esempio Frontex, no? Che uno studio che non è, no, cosa nostra, no? È un ente europeo, ha stimato che potrebbero partire da quegli approdi circa 500.000 persone. Noi dovremmo aspettarci un'invasione di queste dimensioni se la guerra dovesse prendere una certa piega. Bene, che noi fossimo esposti in prima persona, mettiamola anche sotto, come dire, una questione di opportunità, non sembra assolutamente opportuno. Per cui noi non usciremo dalla NATO, il nostro paese probabilmente continuerà a rispettare gli obblighi internazionali, ma sarebbe prudente che l'Italia offrisse la propria collaborazione logistica, ma che non fosse schierata in prima fila in questo conflitto. Questo è quello che chiede la Lega. Io le dirò anche così ottimisticamente: penso che alla fine, dopo tanta discutere, dopo tanta polemica, finiranno tutti gli altri paesi a condividere anche questa nostra posizione di prudenza, sia internamente le forze politiche che oggi si sprecano nelle critiche, ma soprattutto nei rapporti internazionali. Guardi, le chiedo al volo di graduare un istantaneo fotografico giudizio su tre posizioni diverse che vi vengono in qualche maniera attribuite o ricollegate da tre quotidiani diversi. Oggi in prima pagina del Corriere della Sera Massimo Franco firma un'analisi che dice: i timori nascosti dal Carroccio. Il timore sarebbe quello di dover fronteggiare da parte della Lega un dilemma, non da poco, scrive Massimo Franco. Come si fa a tenere fermo il no al bombardamento della Libia da una parte senza apparire dall'altra una versione aggiornata del pacifismo unilaterale alla rifondazione? Prima istanza, quella del rapporto con il vostro elettorato. Secondo invece, cosa che mi ha molto colpito, l'impostazione che danno i due giornali più schierati col centrodestra, cioè Il Giornale e Libero. Cosa dice Il Giornale? Titolo d'apertura: Tremonti aizza la Lega. Altro che Libia e clandestini, scrive sotto il titolo. Dietro lo strappo del Carroccio c'è la manina del ministro dell'economia che vuole vendicarsi della nomina di Draghi alla BCE e dell'oppa francese su Parmalat. Quindi qui vi si attribuisce una parte di complotto di palazzo con Tremonti. Libero invece, Libero, il quotidiano diretto da Belpietro e col direttore editoriale Vittorio Feltri, dice nel titolo d'apertura: imbroglio francese, Sarkozy frega Berlusconi e si prende tutta la Libia, missione segreta a Bengasi 15 giorni fa, i colossi transalpini e Az, difesa, Vinci, costruzione, Total Petrolio hanno firmato ricchi contratti con i ribelli tagliando fuori le imprese italiane. Di queste tre suggestioni così diverse, qualche parola? Oddio, sulla prima io credo che l'elettorato, diciamo il nostro elettorato, non abbia posizioni preconcette, anzi il nostro elettorato è molto attento e si fida molto del giudizio che noi diamo sulla situazione attuale. La posizione, beh, insomma, mi pare che il giornale è abbastanza fantasioso oggi, no? Il giornale oramai ha messo nel mirino che c'è Tremonti cattivo, la Lega cattiva e loro vanno contro, perché è già la seconda volta, terza volta in una settimana. Monterei la Lega cattiva, una Lega che stimola ad usare maggior cautela e prudenza nell'affrontare questa fase. E io la leggo in un'altra maniera: se Berlusconi è riuscito a fare arrabbiare Tremonti, se poi riuscendo magari a piazzare Draghi nella BCE, io credo che sia un grande presidente che segue grandi disegni. vabbè, come vedete il senatore Divina oggi usa una diplomazia incredibile. Sulla tesi invece Sarkozy ci ha fregato tutti, le grandi imprese francesi hanno già firmato i contratti? Ma questo l'abbiamo già detto noi, cioè all'inizio la Francia parte in prima battuta anche perché si trova in una certa difficoltà, perde il prestigio in Algeria, stava soccombendo addirittura in Costa d'Avorio, probabilmente cercava un altro magazzino africano per le proprie scorte. No, cioè è un po' un gioco, però insomma probabilmente non ha fatto soltanto OPA sulle nostre vite. Su Parmalat, ecco, sì. Devo dire che questo punto dell'accordo, di ciò di cui si è parlato al tavolo, il bilaterale che tra Sarkozy e Berlusconi, è un punto che suscita molti commenti anche da molti sms dei nostri ascoltatori, perché c'è chi dice, per esempio Max dice: buongiorno, credo che l'incontro con Sarkozy abbia partorito accordi su spartizione dell'eventuale torta libica post Gheddafi, immigrazione, Parmalat, sostegno al nucleare, intervento militare in Libia, insomma un pacchetto complessivo nel quale c'è anche il cambio di posizione per l'inizio dei bombardamenti da parte italiana. Non è chiaro però, questo è un altro ascoltatore, perché Berlusconi abbia detto sia Sarkozy su tutta la linea senza ottenere per il momento niente di visibile per l'Italia. Speriamo che sia qualcosa che riguarda il petrolio che ancora non conosciamo, quindi c'è una viva speranza dei nostri ascoltatori. Sentiamo da parte di Nativi innanzitutto la valutazione dello stallo sul campo, chiamiamolo così, che cosa l'asset italiano aggiuntivo può aggiungere e che impressione ha avuto sull'evoluzione dal punto di vista tattica, politico-militare sul campo della posizione italiana, del perché abbia assunto questo sviluppo ai suoi occhi Nativi? Allora, in termini generali diciamo che finalmente si sono resi conto, dopo il pasticcio combinato, che l'air power si può impiegare, ma va impiegato come previsto, e quindi servono tutti gli assetti possibili, e compresi quelli nostri, compresi il ritorno da segnalare degli americani a sparare, impiegando per di più gli UAV, ovvero sia i velivoli senza pilota, che sono ideali per andare a fare il tank pinking, ovvero sia l'eliminazione carro per carro dentro le città, perché usano missili piccoli, eccetera, eccetera. Senza. Ma quindi il pasticcio era, l'avevano fatto i francesi e gli americani, o gli italiani negandosi? Allora, il pasticcio l'hanno fatto in termini strategici, è evidente. Avete detto prima che Sarkozy si sta beccando la Libia. Se ci fossimo svegliati subito, probabilmente la Libia un pezzo ce la saremmo beccati noi. Invece noi abbiamo temporeggiato, abbiamo aspettato. In termini strategici non credo che sia molto, ma cosa facevamo noi? Appoggiavamo la Libia di Gheddafi quando gli Stati Uniti, la Francia, l'ONU, la NATO, l'Unione Europea... Chiarissimo, lei dice la stupidaggine iniziale l'ha fatta l'Italia, meglio correggere, meglio tardi che mai, anche se forse un po' tardinello tardi. Sì, molto tantinello tardi, e infatti poi la questione è che se uno temporeggia, beh, allora continua a temporeggiare, però vedendo che non puoi temporeggiare, e lo sai che non puoi temporeggiare, tanto valeva muoversi subito completamente e approfittare della situazione. Praticamente Obama è stato scavalcato nel furore antilibico da Sarkozy, che poi incasserà il dividendo. Ebbene, non lo potevamo fare noi, che problema c'era? Anzi, abbiamo più interessi della Francia e più contatti della Francia in Libia. Dal punto di vista militare, mettere a disposizione 8 velivoli da combattimento non è che cambierà le sorti del conflitto, perché purtroppo abbiamo ancora pochi mezzi che combattono con regole di ingaggio troppo restrittive. Però è già un passo avanti. È chiaro che con uno può dire: se metto tanta roba sul campo e quindi poi spero che finisca più in fretta, oppure ne metto poca e ci vuole molto più tempo. Che Gheddafi possa vincere contro il mondo militarmente è un non senso, quindi perderà. Il quanto tempo ci si mette dipende dal cosa si impiega e il come lo si impiega. Tra l'altro, invece di mandare solo istruttori a terra, cominciamo a mandare dei team di coordinamento delle operazioni aerea suolo, che devono stare lì e insieme ai libici guidare gli attacchi, come si fa in Afghanistan. Niente di nuovo. Poi quando dicono: ah, ma non si deve fare l'eliminazione dei vertici libici, ma per carità, si è sempre fatto dappertutto, si fa anche in questa guerra. Tra l'altro, fare una campagna aerea strategica accompagnata da una campagna aerea tattica può dare risultati migliori. Certo che se uno fa la guerra un pochettino non può sperare di farla finire nel volgere di un mattino. Oh, allora però Politi, se come giustamente dice Nativi bisogna immaginare di avere a che fare con delle decisioni ponderate, anche se poi magari vengono cambiate, ma nel caso in cui sia ponderata l'idea di mettere a disposizione solo 8 velivoli e nella ragionevole presunzione che questo non porti a, quindi a un precipitare immediato della situazione a favore degli insorti, bisogna ragionare sul fatto che questa scelta, ove fosse ponderata e non fosse semplicemente 8 velivoli per non esporci troppo in contraddizione rispetto al no precedente, abbia dietro una valutazione di che tipo? Cioè quella di risultare decisivi solo ancora un pochino più avanti per fare intanto stare la situazione com'è? A lei che sembra, Politico? A me sembra che non ci sia assolutamente chiarezza sugli obiettivi. La prudenza va benissimo, ma poi bisogna capire che cosa si vuole da questa prudenza. Io faccio presente delle cifre, perché l'immigrazione sembra poi alla fine il problema libico ed è una discussione totalmente virtuale. Sono scappati dalla Libia adesso 665.000 persone, di cui solo 5.182 sono arrivati in Italia e a Malta. Stime, anzi valutazioni, conti dell'IOM, cioè lo 0,7% degli immigrati illegali dalla Libia visibili. Ogni anno il 90-95% degli immigrati illegali non arriva sui barconi, ma arriva con un visto turistico e nessuno li rispedisce seriamente indietro perché è difficile acchiapparli. In totale in Italia sono arrivati dall'inizio dell'anno 25.000 persone, di cui 20.000 senza il conflitto libico. L'OCSE da qui al 2050 valuta che noi abbiamo bisogno di 251.000 immigrati l'anno solo per mantenere 60 milioni di italiani come livello di quantità di popolazione. E questo è un dato che noi sono, come dire, avvitamenti, esatto, tipicamente da Montecitorio. E questo, questa cifra, allora, dei 200 rotti mila la chiamiamo sempre per ricordare a tutti che l'equilibrio dei conti intergenerazionali continuerà per molti anni a chiedere questo. Allora, da questo discende poi la nostra posizione sulla Libia. Noi avremmo potuto prendere la leadership, non l'abbiamo voluta. Abbiamo detto no dietro le quinte. Perché? Perché non volevamo disturbare, non ci volevamo prendere responsabilità. Tutto il resto consegue. Consegue il ricatto della Lega, che adesso vuole solo estrarre delle concessioni in più. Tatticamente saranno le nomine dei grandi enti, sarà il federalismo, sarà quello che vogliamo. No, i grandi enti li abbiamo già fatte, quindi questo non è un grande argomento. Penso che avranno di nuovo qualcosa da far premere. Perché quindi lei dice quello è un calcolo interno? Vabbè. Assolutamente interno, perché altrimenti poi bisogna capire cosa vuole la Lega. Vuole Gheddafi o vuole la Libia, come dire, più democratica? È una domanda fondamentale a cui ancora la Lega non ha mai risposto. Poi, il governo, come governo, nella sua interezza, ha perso un treno e adesso, come dire, tenta una rimonta politica impegnando il minimo di risorse militari. Le pressioni degli alleati sono state semplicissime: o voi vi impegnate e vi sporcate le mani, o voi in Libia non ci mettete più piede. Del resto, dalla Libia gli anglo-americani ci hanno già buttato fuori nel 2004. La rimonta è stato il trattato di amicizia italo-libico nel 2006, i cui costi non sono mai stati chiariti veramente. Non abbiamo mai visto gli allegati tecnici, né li ha visti il Parlamento. Quindi quello che noi speriamo è una mediazione turca, della Lega Araba e dell'Unione Africana che, come dire, ci tiri fuori con un colpo di fortuna d'impaccio. Ma nel frattempo è chiaro che c'è la corsa al comitato di governo transitorio libico per assicurarsi l'influenza. Noi ci siamo? Quanto ci siamo? Questa è la domanda strategica che noi ci dobbiamo porre. Molto probabilmente noi, visto che gran parte delle risorse libiche non sono ancora sfruttate, manterremo i contratti, ma perderemo il potenziale di sviluppo del dopo. Questo è probabilmente, come dire, lo scambio, se tutto, come dire, va bene. Di tempo? È Gheddafi che vuole guadagnare tempo. Noi, essendo anche indebitati, non è che possiamo tirare una no-fly zone in lungo come hanno fatto gli americani per 10 anni sotto Clinton, dove avevano un avanzo di bilancio con Saddam Hussein. Siamo noi che non abbiamo tempo. Gheddafi vuole guadagnare tempo perché spera giustamente di dividere la coalizione e i ribelli libici, e lo farà usando la tattica del salame, un pezzo alla volta. Un pezzo misurata è esattamente questa. L'espressione di questa tattica. Mentre per guadagnare tempo. Mentre a Roma si discute, misurata viene espugnata. Va bene, allora adesso noi partiamo con la pubblicità e riprendiamo però dalla domanda che Politi in maniera tagliente ha fatto alla Lega, e quindi chiediamo al senatore Divina di rispondere con chiarezza. Ma qual è dal punto di vista loro l'interesse dell'Italia? Gheddafi o gli insorti? Perché altrimenti né qua né là. E eccoci tornati in studio e ripartiamo allora dall'interrogativo lanciato da Alessandro Politi. Ma è chiaro davvero che cosa vuole l'Italia? Vuole Gheddafi o vuole invece la vittoria degli insorti? Perché una risposta a questa domanda fa discendere conseguenze sui mezzi che si mettono a disposizione, le modalità, le regole di ingaggio, la quantità con cui li si impegna, perché è questo che dà la misura del nostro contributo più o meno decisivo al conseguimento di quell'obiettivo, e a discendere tutte le conseguenze che derivano dalla difesa dei nostri interessi economici, energetici, eccetera, in quel paese. Che dice a questa domanda? Che risponde il senatore Sergio Divina? La domanda è banale, diciamo, fine. Come può chiunque fare una scelta? Preferiamo un dittatore o preferiamo una democrazia? No, è ovvia. Il problema è che noi ci dobbiamo rapportare, ahimè, nel diritto internazionale con gli stati e con i governi che questi stati hanno espresso. La nostra posizione è chiarissima: noi partecipiamo a questa operazione che non la sappiamo ancora connotare bene, no? Questa no-fly zone, questo rispetto di obblighi internazionali, con una partecipazione defilata, una partecipazione, mettiamo a disposizione sostanzialmente tutto, basi, aeroporti, addirittura anche velivoli, però diciamo facciamo parte di una comunità europea, esiste, no? Abbiamo una commissaria che dovrebbe gestire anche i rapporti internazionali per la Comunità Europea. Beh, se c'è la Comunità Europea, batta un colpo. È opportuno, no, che l'Italia resti, e parliamo, i due altri ospiti che lei ha oggi in studio hanno sostanzialmente portato la discussione sulla mera opportunità di intervento, di non intervento, eccetera. È o meno opportuno che l'Italia sia un tantino più defilata. Poi ci siamo già presi, direi, una connotazione. Abbiamo deciso di gestire l'aspetto anche più umanitario. Abbiamo mandato le nostre navi a Bengasi, abbiamo portato viveri, abbiamo portato medicinali. L'Italia ha realizzato quel famoso campo profughi sui confini Tunisia-Libia, un campo profughi per ospitare più di 50.000 persone. Siamo stati criticati per aver dato forse con troppa così leggerezza dei permessi temporanei proprio per accettare queste persone, per instradarli, eccetera, e consentire comunque chi aveva familiari in Europa di poter fare il ricongiungimento. Bene, questa è la nostra posizione. Cosa c'è di male nel continuare in questo solco? Signori, io credo che quasi tanti hanno scommesso troppo e troppo in fretta sull'esito della guerra libica, no? Tutti pensavano a una guerra lampo, la stessa Francia, andiamo a prenderci un po' di petrolio, chiudiamo la partita velocemente. Beh, insomma, se oggi non si sostengono, diciamo, i rivoltosi in modo più sostanzioso, beh, non sappiamo mica quanto durerà e come andrà a finire, anche perché ricordiamo che tutto sommato una grossa parte del popolo libico ama ancora Gheddafi, è fedele a Gheddafi, se non altro perché Gheddafi, rispetto a quella parte del Nord Africa, è riuscito a gestire un po' l'economia, un po' una ricaduta sociale molto diversa che rispetto agli altri paesi, e tutto sommato in Libia non ha mai sofferto quello che hanno sofferto gli altri paesi nordafricani, e il reddito medio pro capite dalle 2 alle 3 volte quello degli altri paesi confinanti, per cui insomma stiamo attenti a dare giudizi così affrettati sull'esito della guerra libica. Allora, c'era tutto Farid Adli, che è un giornalista libico da diversi decenni in Italia, collabora con il Corriere della Sera, il suo punto di vista vicino, dichiaratamente vicino, lo abbiamo letto in queste settimane, ascoltato nei suoi interventi su diversi media, è un punto di vista vicino a quello del Consiglio Nazionale Transitorio Libico. E quindi a Farid chiedo, dal suo punto di vista, dal punto di vista anche degli insorti, la decisione italiana cambia la valutazione di una posizione fino a quel momento troppo prudente e lo rende invece un partner decisivo, oppure è un avvicinamento ma non decisivo, perché ciò che conta è il cuore del pugno della missione fino a questo momento sostenuta dai franco-britannici? Come la vede Farid? Ma io parto dal punto di vista della popolazione libica e della popolazione civile libica, e dalle prese di posizione che il Consiglio Nazionale Transitorio ha assunto. Credo che la Libia, l'Italia dalla fine di marzo ha assunto una posizione, non è affatto vero che è defilata, è una posizione molto precisa, è stata detta dal ministro Frattini molto, molto chiaramente, è stato incontrato il presidente del Consiglio Nazionale Transitorio ed è stato il primo paese che è stato visitato dal dottor Jalil, è stato l'Italia. Io credo che la posizione italiana alla fine ha assunto una chiara connotazione a favore del popolo libico e di difesa dei propri interessi strategici. Le due cose vanno di pari passo. L'Italia ha anche assunto un ruolo importantissimo per quanto riguarda l'assistenza umanitaria, ci sono state già dette una cosa, per esempio, che non viene detta e che non viene dato molto diciamo eco mediatica, è la presenza in Italia di molti feriti di guerra che vengono curati negli ospedali di Milano, Bergamo, Bologna e così via. Penso che questi aspetti sono fondamentali e importanti e potevano assolutamente bastare. Io non sono d'accordo, ma questa è una mia posizione personale, perché vivo qua in Italia e ho vissuto un po' la storia anche per vicende familiari del periodo coloniale. Ah, ecco, ecco, quindi lei è il primo a dirci anche in ragione di questa storia, tutto sommato, che non bombardassimo è comprensibile, perché ci sono tante altre cose che si può fare. Ecco. L'Italia avrebbe potuto effettivamente evitare di partecipare alle azioni attive di guerra, mantenendo quello che aveva fatto finora, e a testa alta penso che poteva rispondere agli attacchi o alle critiche delle altre nazioni che chiedevano un intervento maggiore, una presenza maggiormente attiva. Bisogna partire, secondo me, bisogna partire dal punto di vista anche della popolazione libica. Attualmente è importante la difesa della popolazione di Misurata e della montagna occidentale, perché lì la popolazione è sottoposta a un attacco micidiale da parte delle forze di sicurezza di Gheddafi. Io vorrei dire all'ospite, che non so chi sia, purtroppo mi spiace perché non ho sentito il senatore Divina della Lega. Dire che Gheddafi ha un appoggio interno e un consenso interno è assolutamente una visione che non guarda alla realtà. L'altra questione, dire che durante il periodo di Gheddafi la Libia ha goduto di un benessere, io vorrei invitare questo vostro questo amico politico italiano di andare a visitare i quartieri di Bengasi o anche di Tripoli, dove si vive veramente male, dove non c'è l'asfalto per la strada. No, però Farid, il senatore Divina, adesso non tocca a me difenderlo, però ha semplicemente richiamato un dato che è un dato oggettivo, cioè non è certo l'Eden realizzato, però il reddito relativo paragonato a quello di altri paesi nordafricani è più elevato. Se noi due abbiamo 100... Certo, la statistica, chiarissimo, la statistica del po'. Chiarissimo. Allora, io adesso chiedo un secondo ad Andrea Nativi. Dal suo punto di vista, al di là del tira e molla italiano, chiamiamolo così, ma in realtà non sono in primis gli americani che fin dall'inizio, con tutta questa ondata di Jasmine Revolution, la rivoluzione del gelsomino, non sanno che pesci prendere, sbagliano posizione, forzano, poi si tirano indietro, non si capisce bene dove vogliano andare a parare? Non è un po' così fin dall'inizio, Tunisia, Egitto, perché in Bahrain è così diverso la faccenda, perché sulla Siria nessuno riesce più a capire che cosa bisogna fare, bisogna stare con Bashar che tira i carri per strada e li fa entrare oramai nelle case della gente che protesta, e in Libia tutto sommato perché partire in quel modo, poi ritirare i propri mezzi dopo poche settimane quando potevano essere decisivi loro davvero? Come se la spiega? Me la spiego che se noi facciamo dei pasticci, gli americani li fanno al cubo, essendo molto più grandi e importanti, hanno fatto delle scelte assurde dal punto di vista politico, non hanno concordato bene politica e militari, i militari erano assolutamente contrari a questo nuovo impegno, e poi, come sempre succede, si sono trovati a fare delle formule di compromesso che vanno bene magari nelle aule di Capitol Hill, ma non sul campo di battaglia. Forse la decisione annunciata ieri anche di mandare a casa Robert Gates, che era l'ex repubblicano, eccetera, di accelerare la transizione che pure era prevista con Panetta che arriva, è anche collegata a questo. Ma sicuramente, tra l'altro l'operazione consente anche di, con un promoveatur, ultra moveatur, di togliere Petraeus dall'Afghanistan e così magari riuscire a trovare qualcuno di più morbido per iniziare il disimpegno, che Petraeus non voleva, come non lo voleva il suo vice Rodriguez, che infatti verrà sostituito anche lui. Attenzione ai italiani in ascolto, perché quello che avviene con il cambio di comandante, con il fatto che Petraeus viene sollevato, ci riguarderà in quanto italiani. Cosa significa? Significa che questa decisione è una decisione che esprime da parte dell'amministrazione americana il fastidio evidente che c'è fin dalla nomina del presidente americano, che per il primo anno ha fatto tira e molla rispetto all'Afghanistan. Lui vuole andarsene dall'Afghanistan, questa è l'amministrazione. I militari dicono: ragazzi, tutto quello che abbiamo fatto fino a qua, se noi non consolidiamo e teniamo il campo centrale, non servirà a niente. Questo riguarderà anche la presenza e l'impegno del contingente italiano in Afghanistan, temo. E quindi, a concludere, che si aspetta degli americani adesso? Adesso mi aspetto che vadano a maggior consapevolezza, quindi tireranno tutte le leve cercando di intervenire più pesantemente ma con un basso profilo, quindi vede che mandano i Predator e stanno più calmini sugli aerei da combattimento, usano anche quelli peraltro, però con un sistema più farraginoso. È chiaro che senza di loro non si va avanti. Volevo dire solo una cosa, che poi l'Italia qualche chance l'avrà, perché ci sarà comunque un dopoguerra, e figuriamoci se non ci sarà una missione di stabilizzazione. Ecco, allora lì probabilmente avremo la seconda chance di recupero, se ce lo lasciano fare, per prendere il comando della missione di stabilizzazione, che è una gran rogna, perché noi italiani siamo fessi in questo, cioè facciamo poco quando si spara, in genere si spara per un periodo limitato, poi però ci invischiamo nelle missioni di stabilizzazione che durano 10 anni, non è molto sveglio. Ancora una cosa, noi siamo con Francia e Qatar tra i 3 paesi che hanno riconosciuto il CNT, vabbè, ma se li abbiamo riconosciuti allora muoviamoci fino in fondo, se no facciamo come altri paesi che pure picchiano ma che non li riconoscono, cioè sono tutte contraddizioni. Ah, no fly zone, la no fly zone non, in termini tecnici non serve già più a niente, certo. Perché niente che vola, quello che conta è come abbiamo detto prima, cioè campagne di attacco strategico, tattico e supporto. Questa la no-fly zone praticamente serve semplicemente adesso a fare dei grandi 8 nel cielo libico. Esatto. Non ad altro. Eccoci tornati in studio, qualche rapida sensazione da parte di ascoltatori. Sentiamo Davide che ci chiama da Torino. Buongiorno Davide, dica. Buongiorno. Senta, volevo dire che sono d'accordo con la Lega, che cioè, questo intervento armato è così specifico, secondo me non porta nulla, nel senso che può aggravare la nostra situazione politica ed economica nei confronti della Libia, anche perché non sappiamo come va a finire, se Gheddafi sarà cacciato o se Gheddafi si riaffermerà, quindi conviene a un certo punto insomma evitare, visto che è una guerra che non abbiamo voluto noi, l'hanno voluto i francesi e gli americani, insomma sarebbe un pochettino che se la potrebbero vedere loro. Grazie Davide, risposta quindi Alessandro Politi, che dice in realtà quello della Lega è un calcolo tattico tutto intorno al governo, sa Dio perché, per cosa, più che una opinione di politica estera e strategica. Sentiamo invece Michele che ci chiama da Roma. Prego Michele, come la pensa? Pronto? Dica. Buongiorno, lieto di intervenire. No, io invece la penso completamente all'opposto di questo signore che ti ha parlato. Accetto quindi la visione dell'Italia, perlomeno, anche se in ritardo, potrebbe dare una mano ai insorti e non ai ribelli, come lei giustamente dice. Sono contro la Lega perché la Lega, io ho 78 anni, sono stato in politica negli anni verdi e ritengo che la Lega è un partito anti-italiano, lo vediamo da 7 manifestazioni, sulla bandiera, su altre cose, non interessa niente. Però volevo dire sia a lei, che io sono un po' commosso. No, ma prego, si figuri, perché commuoversi, non si preoccupi, parli pure sempre. Ecco, appunto, bisogna dire una cosa, si vuole stare con Gheddafi o con gli insorti? Se si stanno con gli insorti forse riusciremo a far parte di quella famosa commissione che ho sentito accennare da un vostro... Va bene, grazie Michele. Io le faccio osservare però, pur lasciando alla Lega l'onere e il compito e il dovere di difendersi, le faccio osservare che poi paradossalmente l'obiezione avanzata dai critici della Lega, come lei dice, è un partito anti-italiano, vede poi la Lega a volte essere la forza politica che scende in campo con più durezza, intransigenza, nella difesa di valori o asset o imprese o interessi considerati, identificati come il nocciolo duro della famosa italianità. No, l'abbiamo visto anche sulla vicenda poi Parmalat rispetto all'Actalis, che si compie con tutt'altro esito rispetto a quello di cui politica e grandi banche italiane hanno parlato per settimane. Io tra virgolette sono molto contento che prevalga poi il mercato, mi dispiace, però c'è questo paradosso per cui a volte la Lega, che è quella per il federalismo e non per i simboli nazionali, sembra più interessata di altri alle cose su cui poi c'è il nocciolo duro dell'interesse italiano. Farid Adli, dal punto di vista di chi ha collegamenti diretti, occhi e orecchie in Libia, oltre a essere libico, le cose come evolveranno? Che tempi sono prevedibili allo stato attuale del rapporto di forza sul terreno? Non si possono prevedere. Gheddafi è finito in Libia, pochissimi lo vogliono ancora. Ma quanti mezzi ha per resistere? C'è, Resiste ancora perché purtroppo ci sono delle potenze che lo sostengono e che ci sono delle falle nella risoluzione dell'ONU che gli permettono. Ricordiamo che anche se la Saras ha dichiarato che non ha venduto al regime libico il carburante, il primo ministro tunisino lo ha confermato, e poi le informazioni sui movimenti della nave che è stata indicata come quella che ha portato i carburanti, venduto i carburanti alla Libia, è stata segnalata nelle fasi, nei momenti in cui è stata definita la vendita di quelli dei carburanti. Quindi, come vede, ci sono dei punti di appoggio e degli uomini di potere che danno una mano al regime di Gheddafi. Beh, anche l'Organizzazione dell'Unità Africana, direi che esiterei a dire che a maggioranza è con gli insorti, No, l'Unione Africana è un organismo che più o meno è stato inventato da Gheddafi, quindi quelle sono persone che sono stati sostenuti, per esempio gli interventi con tanti bei soldi anche in diversi altri paesi, che quei presidenti lì sono stati aiutati, finanziati con il petrolio libico da Gheddafi, quindi la loro posizione è assolutamente inconsistente dal punto di vista. E però siamo in condizione di non poter ancora fare una previsione, e questo insomma è una. C'è una commissione dell'ONU che sta andando in Libia, vediamo quando questa commissione che valutazione darà. Benissimo, allora una domanda finale per il senatore Sergio Divina. È evidente, alcuni giornali lo scrivono esplicitamente, quella sera il Messaggero, il Sole 24 Ore, il Presidente della Repubblica non gradisce questo dibattito parlamentare a cui si arriva per la richiesta insistente della Lega dopo il contrasto con il Presidente del Consiglio. Il Presidente della Repubblica avrebbe evitato questa vetrina che porterà discredito sulla posizione italiana, come se ce ne fosse bisogno. Questa valutazione è impropria? Andava fatto davvero questo dibattito, senatore Divina? Oddio, quando si sollevano questioni di legalità apri degli scenari fra i più larghi e potenzialmente espandibili. Non so come qualificare giuridicamente questa posizione. Certo che se noi seguissimo pedissequamente, non so, i francesi disposti anche a fare interventi di terra, probabilmente contravverremo anche la risoluzione ONU e entreremo in un conflitto vero e proprio. In caso di conflitto, ricordo che l'Italia ha degli obblighi costituzionali, non so, qualcuno deve pur dichiarare lo stato di guerra, le Camere dovranno pur autorizzare, è Napolitano, no? Il presidente che infatti ritiene che siamo pienamente nell'articolo 11 della Costituzione senza stati di guerra, perché questa non è un'azione di guerra, eccetera eccetera. Questo infatti però credo non siano questi le questioni. Io vorrei innanzitutto tranquillizzare l'ascoltatore libico che forse ha sentito solo la fine del mio primo ragionamento. Non è che qua la Lega parteggia per non siete per Gheddafi, ma assolutamente, abbiamo già riconosciuto, no, il consiglio di transizione, per cui una presa di campo è stata fatta. Quello che volevo dire io è che stiamo cauti, nel senso che chi aveva previsto una guerra troppo rapida è già stato smentito, chi scommette su un'altrettanta rapidità potrebbe essere altrettanto smentito. Ci siamo impantanati in tante guerre, no? Gli americani sono poi maestri. Ditemi, non so, se avessimo l'obbligo di intervenire su tutte le aree calde del Mediterraneo, chiarissimo, dovremmo... Quindi il senatore Divina dice no, in realtà il dibattito è opportuno perché così ciascuno si assume le sue responsabilità, ci abbiamo sempre un articolo della Costituzione delicato e quindi meglio discutere. Speriamo solo che si evitino toni e ulteriori polemiche, perché io credo che il tasso di polemica interna istituzionale non faccia bene all'Italia nel consesso internazionale, né per la credibilità del governo né per le diverse parti politiche del centrodestra, perché scoccia innanzitutto gli elettori. Un fatto è però che questa posizione di prudenza della Lega io temo sia la meglio comprensibile nella maggioranza di centrodestra e credo la meno impopolare tra gli elettori del centrodestra e rispetto alla maggioranza dei sondaggi. Vedremo se mi sbaglio o meno. Un'ultima risposta, un'ascoltatrice mi dice: ma come, oggi niente santa? Ma oggi è Santa Valeria e le Valerie a me mi hanno cavato il sangue nella vita dal punto di vista sentimentale, quindi ricordo che è Santa Valeria, ma dico tutto sommato che insomma sante che sono meno dannazione per noi uomini esistono, che ne so, Margherita, una santa per la vita, chiamatela come volete, ma insomma comunque auguri anche alle Valerie e appuntamento domani, Rino Giornale Radio.